Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, ben ritrovati al nostro programma dedicato ai nostri soldi. 3.556.000 ricorsi ogni anno che finiscono sui tavoli più diversi, fra sedi giudiziarie, camere di commercio e sportelli reclami. Ecco l'Italia che litiga, scrive stamattina il Sole 24 Ore. Rispetto a 10 anni fa le pratiche di contenzioso fra imprese e consumatori sono cresciute del 30%. Facciamo qualche numero: ben 250.000 lamentele su risparmio e polizze, contribuenti avversari del fisco in 328.000 cause. I conflitti con le aziende aumentano, ma negli ultimi anni sono aumentate notevolmente anche le tutele per i consumatori, che possono rivolgersi ai canali più diversi per far valere i propri diritti. Gli uffici reclami delle stesse società, come dicevamo, i giudici di pace, l'antitrust, l'autorità per il gas e l'energia, l'associazione dei consumatori, Mister Prezzi, il garante per la privacy, i comitati regionali per le TLC, le telecomunicazioni. Potremmo continuare a lungo, e anche se tutti questi canali possono apparire complessivamente un terreno ridondante, è segnale che in effetti le società, per crescere, conquistare il mercato e sempre più consumatori, giocano tutte le carte, sfruttando ogni opportunità concorrenziale, a volte anche non propriamente corretta dal punto di vista commerciale. Fra le strade più battute dai consumatori scontenti negli ultimi anni ci sono state le camere di commercio. Oggi si apre proprio la settimana della conciliazione, che è possibile attivare in questa sede. Come funziona la conciliazione stragiudiziale? È un tema peraltro di grande attualità, perché rischia anche, almeno nel, come dire, formato attuale, sparire dal nostro ordinamento. Allora, di tutto questo stamattina parliamo con i nostri ospiti: Tiziana Pompei, responsabile relazioni istituzionali di Union Camere, e Sergio Veroli, presidente di Consumers Forum, che è l'associazione, l'organizzazione che riunisce imprese e consumatori proprio per facilitare il dialogo tra di loro. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione. Raccontateci quando siete ricorsi alla proprio quella che chiamiamo conciliazione, giustizia stragiudiziale, perché il tema è proprio questo. Quando avete litigato con un'impresa, è molto facile che capiti, con l'operatore delle telecomunicazioni, il gestore telefonico che abbiamo scelto, piuttosto che un'altra situazione. Insomma, che tipo di dialogo vi è stato permesso di attivare, e soprattutto con che esito questa pratica si è conclusa? Il numero verde, ve l'ho ricordato, 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi. Una rapida occhiata alla borsa, che oggi vive una giornata piuttosto interessante. Positiva Parigi, più 1,21%, Francoforte più 1,22%, Londra più 1,17%, Milano più 1,05%, quindi borse europee che stanno recuperando la debolezza della settimana scorsa. Abbiamo ancora il petrolio sotto i riflettori. Venerdì abbiamo avuto una situazione a $79 al barile, nuovi massimi da un anno a questa parte. Oggi gravitiamo leggermente al di sotto di questo prezzo. Il Brent a Londra a 76,85, il WTI a New York è a 78,38. Molti appuntamenti societari anche oggi a Wall Street, ma è ancora una volta l'euro a correre sul dollaro, quindi ancora una volta sul versante valutario movimenti piuttosto intensi. Euro appunto sopra 1,49, in attesa del vertice oggi a Lussemburgo dei ministri delle finanze dell'Eurozona. A Milano i migliori titoli Intesa più 2,42 premiata da Morgan Stanley, Italcementi più 1,73, Telecom invece ha un giudizio positivo da parte di Citigroup più 1,61% per il titolo. In negativo troviamo invece Luxottica meno 0,6%, Mediaset meno 0,5%, STM meno 0,3%. Ancora sospesa dalle contrattazioni l'Ottomatica. Vedremo quali comunicazioni dovrà dare il gruppo in giornata. Lasciamo la borsa e andiamo al tema di oggi. Parliamo di conciliazione. Dalle liti condominiali alla risoluzione di controversie con gestori telefonici fino alle mediazioni familiari. Quando tra un'impresa e un consumatore o tra più imprese insorge una controversia, anziché rivolgersi ad un giudice ordinario, è possibile ricorrere all'intervento di un esperto che aiuti a trovare una soluzione al conflitto. La conciliazione è infatti uno strumento di risoluzione assolutamente volontario, che consiste in una vera e propria negoziazione gestita dalle stesse parti in lite, che ne sono le protagoniste, e che viene di fatto guidata da una terza figura, il conciliatore. I vantaggi? La rapidità dei tempi di risoluzione, la semplicità del procedimento e i costi ridotti. Fattori che hanno attirato nel corso degli anni sempre più soggetti. Nei primi 6 mesi del 2009, per esempio, le sole conciliazioni gestite dalle Camere di Commercio hanno superato quota 10.000, per una durata media di 50 giorni e un valore medio di poco superiore a 12.000 euro. Un successo che tuttavia rischia di essere vanificato dalla riforma della professione forense, che assegna di fatto solamente agli avvocati il compito di dirimere le controversie in materia di consumo. 800 24 00 24, il numero verde per voi, per i vostri interventi. Raccontateci quando avete, come dire, praticato queste strade alternative per dirimere una controversia attivata con la lavanderia sotto casa, piuttosto che con il vostro gestore telefonico, piuttosto che con il negozio che vi ha venduto il frigorifero. Insomma, la casistica è sicuramente molto ampia. Tiziana Pompei, responsabile relazioni istituzionali di Unioncamere, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci ritroviamo qua, credo ad un anno di distanza, abbiamo ogni anno questo appuntamento nel corso del quale anche con Salvadanaio presentiamo la settimana della conciliazione. Peraltro questa sesta edizione, quella di quest'anno, si apre, mi pare, con una novità, perché in tutte le camere di commercio viene data la possibilità di, come dire, esaminare conflitti aperti tra imprese e consumatori in maniera del tutto gratuita? Esatto, sì, oggi inizia la settimana della conciliazione, che sarà fino al 24 di ottobre. Per la prima volta durante la settimana il servizio delle Camere di Commercio sarà offerto gratuitamente alle imprese e ai consumatori su tutto il territorio nazionale e per i conflitti fino a un valore massimo di 50.000 euro, questo però ad eccezione delle controversie in materia societaria. Questa, diciamo, una scelta che abbiamo fatto quest'anno proprio per, dopo un'analisi approfondita del fenomeno che ha riguardato le Camere di Commercio, e in seguito alla quale si è emerso appunto che il tema della gratuità era un tema molto sentito, quindi le conciliazioni sono state gratuite fino al 31 dicembre del 2008 sia per le Camere di Commercio, quelle in materia di consumo, che per le associazioni dei consumatori sulla base di un progetto del Ministero dello Sviluppo Economico, ed effettivamente il numero delle conciliazioni è aumentato. E quindi, ecco, questa è la novità di quest'anno. Abbiamo pensato che per poter davvero incentivare questo istituto fosse necessario dare un segnale, un ulteriore segnale, e quindi rendere gratuito questo servizio per tutta la durata della settimana. Perché altrimenti qual è il costo per poter aderire, per poter avere accesso a questo servizio, dottoressa Pompei? Guardi, per le controversie in materia di consumo, che normalmente sono di valore contenuto, dipende, diciamo, dal valore del conflitto, dal valore del contenzioso. Dipende dal valore della controversia, ma insomma mediamente per una controversia, diciamo, fino a 1.000 euro il consumatore e anche l'impresa spendono 40 euro, diciamo, quindi la tariffa è molto bassa, e però comunque diciamo rimane un incentivo forte per accedere al servizio. Per noi è anche un motivo, diciamo, di tipo, come dire, un obiettivo anche di tipo culturale, perché poi la gratuità attrae il consumatore e l'impresa, ma poi fa conoscere il servizio e quindi anche il compito di far conoscere la conciliazione, in che cosa consiste, e poi attrarre di più l'impresa e il consumatore. Come vi ponete rispetto a tutti gli altri canali che è possibile, tutte le altre strade che è possibile percorrere proprio per arrivare ad una risoluzione di un eventuale conflitto con un'azienda? Possono essere della tipologia più diversa, come dicevamo anche nella nostra scheda, e il preambolo della mia trasmissione è stato proprio questo. Oggi le strade che si possono percorrere, che possono essere battute, sono tante, sono tantissime, a volte rendono anche un po' difficile per il consumatore orientarsi in questo senso. Qual è, secondo lei, il momento in cui si può decidere questo è il caso giusto per poter andare alla Camera di Commercio a risolvere questo problema? Guardi, noi abbiamo sempre sostenuto, io credo che sia necessario e utile che vi siano diversi modelli di conciliazione o diversi canali per accedere alla conciliazione. Ho sempre ritenuto che i diversi soggetti che potevano fornire questi servizi, come le associazioni dei consumatori, che fanno una conciliazione diversa rispetto a quella delle Camere di Commercio, perché è una conciliazione paritetica, quindi quella offerta dalle associazioni in seguito ad accordi con le aziende, ma anche quella delle Camere di Commercio, anche quella dei giudici di pace, anche quella che svolgono gli avvocati. Io credo che è un fenomeno che, se riesce a decollare, se riesce davvero ad essere utilizzato, possa essere svolto da diversi soggetti. Quindi non credo ci sia nessuno che possa vantare l'esclusiva per questo tipo di servizio, e che quindi sia utile per tutti, per i cittadini e per le imprese, che vi sia una molteplicità di soggetti che possono fornire questo servizio. Però ecco, insomma, la caratteristica fondamentale è proprio la gratuità, o quantomeno oneri estremamente bassi per poter utilizzare questi servizi, e siccome tutto questo rischia di cambiare qualora si rendesse obbligatorio appunto l'obbligo di dover portarsi un avvocato per dirimere controversie anche di piccolo importo, è chiaro che la situazione appunto potrebbe cambiare. La devo fermare, dottoressa Pompei, poi volevo anche salutare per un attimo il presidente di Consumers Forum, Sergio Veroli. Presidente, buongiorno. Ci sente, salve. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, ancora buona giornata. Oggi stiamo parlando delle liti che sono molto frequenti tra consumatori e imprese, oggi risolvibili anche attraverso la procedura extragiudiziale di cosiddetta conciliazione paritetica gratuita prevista dall'articolo 141 del codice del consumo. Oggi ne stiamo parlando di una in particolare, quella che è possibile a cui è possibile accedere attraverso il servizio delle camere di commercio. Infatti da oggi parte la settimana della conciliazione, peraltro Camere di Commercio italiane aperte in maniera gratuita proprio per ascoltare i cittadini e i consumatori e i problemi diffusi che hanno in questo momento. Ma c'è un problema, c'è un bel problema. Sergio Veroli, presidente di Consumer Forum, ancora buongiorno. Tra l'altro questa è un'organizzazione che da 10 anni riunisce imprese e consumatori proprio per facilitare fra questi il dialogo. Tutto questo rischia di essere vanificato, perché? Intanto una precisazione, sì. Le conciliazioni possono essere fatte sia nelle camere di commercio ma anche presso le associazioni, va bene? Ci sono degli accordi diretti, e per questo noi siamo intervenuti in questi giorni, fra aziende e associazioni, oltre 20 accordi fra le principali aziende di servizi, va bene? Telecom, Enel, Banca, eccetera, e le associazioni dei consumatori, per cui si possono fare conciliazioni paritetiche, cioè un cittadino si rivolge all'associazione, la quale lo rappresenta presso l'azienda, e lì si fa la conciliazione. Calcoli che lo scorso anno, soltanto nel settore telefonico, ne abbiamo fatte oltre 22.000. Credo che sia anche il record detenuto dalle Camere di Commercio, diciamo, come settore è quello proprio più praticato. No, ma non le Camere di Commercio, altro tipo di associazione. Sì, però io parlavo diciamo delle controversie con il settore delle telecomunicazioni. Sì, anche alle Camere di Commercio ci si va prevalentemente per quel settore, certo, per non parlare poi del fatto che ci sono anche i Corecom regionali, appositamente istituiti per quello. Per cui abbiamo già capito qual è l'ambito più problematico. Esatto. È una tematica, e poi adesso con l'apertura del mercato energetico, va bene, ci saranno problemi anche lì, anche se per adesso sono pochi. Comunque, detto questo, l'importante, come diceva la dottoressa prima della Camera di Commercio, è che il cittadino sia libero di andare dove vuole e di farsi rappresentare da chi vuole lui. Quello che sta succedendo con questa riforma dell'ordinamento forense è che gli avvocati vorrebbero l'esclusiva di questo sistema di risoluzione alternativo delle controversie, e calcoli che anche l'antitrust si è opposta a questa esclusiva, che non sarebbe a vantaggio di nessuno, tantomeno dei cittadini. E insomma, che cosa state facendo voi per eventualmente combattere questa eventualità? E oggi faremo una riunione, riuniamo con tutte le aziende che hanno fatto dei protocolli di conciliazione e tutte le associazioni, e cercheremo di interloquire col Ministero della Giustizia, con i gruppi parlamentari, per far capire loro il nostro punto di vista. Noi siamo contro l'esclusiva, che gli avvocati facciano la loro conciliazione, ma non in esclusiva, possano fare tutti, e facciamo anche conoscere loro l'entità di quello che è stato fatto fino adesso. Negli ultimi 10 anni stiamo parlando di oltre 70.000 conciliazioni, che non è poca cosa. E l'altra cosa sarebbe importante, comunque, far conoscere che esiste questo sistema alternativo di risolvere le controversie. Considerato la situazione in cui versa la giustizia, sarebbe una cosa importante far conoscere a tutti i cittadini che esistono anche le conciliazioni. Beh, per la verità abbiamo fatto tanto lavoro anche per divulgare, no, questa modalità, come dicevamo, per risolvere i nostri conflitti con le aziende. Sono di varia natura, l'abbiamo detto più volte, però a volte questi messaggi non arrivano, forse perché molto spesso si ritiene proprio per il fatto di non essere magari in maniera sufficiente assistiti, dottor Veroli, di non riuscire a, come dire, raggiungere anche l'obiettivo, no? C'è qualche ascoltatore che ci sta scrivendo che per la verità molto spesso ha tentato di intraprendere queste vie, di attivare questi tavoli, ma con scarso successo, perché comunque si ha sempre di fronte un'azienda che magari ha è sempre un po' più forte poi nella trattativa, no? Quali sono, magari secondo proprio la vostra esperienza, i tavoli che hanno funzionato meglio in questi anni e dove invece si poteva far meglio? guardi, noi abbiamo avuto un boom delle conciliazioni proprio nel settore delle telecomunicazioni, soprattutto in seguito alle truffe sugli 899, sui numeri a pagamento, eccetera, va bene? Naturalmente noi non è che soprattutto le associazioni sono contente di fare tutte queste conciliazioni, perché è evidente che per un cittadino che si rivolge per una conciliazione ve ne sono tanti che non hanno né la voglia né la possibilità né la conoscenza per rivolgersi all'associazione e quindi subiscono l'ingiustizia e stanno zitti. Quindi che dovrebbe succedere? È che le aziende guardino dove sono le conciliazioni, quali temi riguardano e quindi agiscano a monte per risolvere i problemi. Infatti, questo è il discorso di fondo. No, tra l'altro io ne parlavo qualche giorno fa a Soldi e Dintorni, in un'altra trasmissione del mattino che conduco alle 8:15 con un esponente dell'autorità delle telecomunicazioni, e parlavamo proprio delle novità che riguardano i Corecom, i comitati regionali appunto di questo settore, dove è possibile dirimere le controversie proprio in questo settore, e io così mi stupivo un po' anche per i numeri di tutti i conflitti che vanno a finire lì, dei quali si deve discutere. Mi dicevo, ma non è possibile pensare ad un mondo sicuramente ideale in cui tutti gli operatori si comportino bene, no? Con la propria utenza e con i consumatori. E lui mi diceva, perché dico, io comunque sono stupita di tutta questa conflittualità, e lui mi faceva vedere, come dire, il problema da un altro punto di vista. Mi diceva, guarda che questa in realtà forse è proprio la dimostrazione di una concorrenza che funziona, nel senso che gli operatori non sono moltissimi nel nostro paese, ma fanno di tutto per potersi accaparrare la clientela, a volte anche correndo il rischio che corrono molto frequentemente di, come dire, autoarecarsi un danno d'immagine estremamente, estremamente importante. Detto questo, vorrei tornare adesso alle Camere di Commercio con Tiziana Pompei e sentire però anche un ascoltatore, che è Giuseppe da Brescia, che saluto. Giuseppe, benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Dunque, io racconto subito il fatto della mia storia. Io poco più di 2 anni fa praticamente mi venne la malaugurata idea di cambiare gestore telefonico. Posso dire il nome del gestore oppure... E facciamo, tanto non è che siano molti, io l'uno o l'altro, sono 4-5. E niente, feci un contratto telefonico, dopodiché però mi accorsi che non avevano rispettato ciò che avevano detto per telefono, sì. E immediatamente feci la disdetta, no? Sì. Disdetta che venne accettata tranquillamente. Però da 2 anni a questa parte non faccio altro che ricevere fatture di pagamento di un servizio mai ricevuto, e anche di avvocati che vogliono questi soldi qua. Ho tentato in tutti i modi, al garante delle telecomunicazioni, alla sede centrale di questa emittente, cioè di questo gestore, dove mi hanno detto che lo sbaglio era loro e che si scusavano, che il sottoscritto era in ordine, cioè era in regola con la disdetta. E insomma, lei ritiene di averle fatte tutte le strade, Giuseppe, ma ancora senza successo la continuano ad inseguire. Gli avvocati mi continuano ad inseguire che vogliono questi soldi qua di fattuccia, di un servizio che non ho mai ricevuto. Certo. Ecco, cosa devo fare? Giuseppe, una bella domanda. Sentiamo intanto Tiziana Pompei. Potrebbe andare alla Camera di Commercio di Brescia, Giuseppe, per poter rappresentare e rivolgersi ad un giudice conciliatore che lavora presso queste sedi, dottoressa Pompei? Assolutamente sì, ovviamente presso le Camere di Commercio sono attivi i servizi di conciliazione per la risoluzione di questi conflitti. L'ascoltatore potrà rivolgersi alla Camera, anzi credo che debba e possa farlo per diciamo così rappresentare la sua esigenza, anche perché, come diceva anche il collega di Consumers Forum, queste conciliazioni in materia di telecomunicazioni sulla base di una delibera dell'autorità sono obbligatorie, nel senso che prima di salire qualsiasi altro passaggio di tipo giudiziario ordinario occorre comunque rivolgersi a una Camera di Commercio oppure ad un'associazione di consumatori, ad un Corecom, come diceva lei prima, per poter risolvere questi conflitti. Quindi io consiglio di rivolgersi alla Camera di Commercio di Brescia, troverà sicuramente il personale competente. Magari approfittando proprio anche di questa settimana, aggiungo io. Approfittando di questa settimana in cui la conciliazione è gratuita, sicuramente troverà una risposta. Diciamo, per quanto riguarda il ragionamento più generale, volevo dare un contributo anche un pochino al dibattito, per dire che effettivamente questo, il tema delle telecomunicazioni, e quindi questo tipo di conflitti, è un tema molto delicato e diffusissimo. Si diceva che le associazioni hanno fatto 70.000 conciliazioni, pensate che in 7 anni le Camere ne hanno fatte 47.000, quindi parliamo di numeri decisamente elevatissimi, quindi vuol dire che è un tema molto sentito. Sicuramente noi tutti almeno una volta nella nella vita di discutere con i nostri. Esattamente, un problema di questo tipo. Ma la cosa secondo me più interessante è che queste conciliazioni, come dicevo prima, sono di tipo obbligatorio, e quindi questo è anche un segnale rispetto al tema della conciliazione. Se le conciliazioni obbligatorie si fanno, vuol dire che diciamo, c'è necessità che diciamo, per questo tipo di conflitti arrivi un segnale forte da parte della legge che dica che per magari conflitti di un certo tipo, di un certo tipo di valore, la conciliazione obbligatoria funziona. E su questo voglio dire che il Ministero della Giustizia ha appena approvato ha fatto approvare dal Parlamento un disegno di legge di delega che ridisciplina diciamo, l'istituto della conciliazione, all'interno del quale potrebbe essere prevista questa tipologia di conciliazione che è quella obbligatoria per alcuni tipi di conflitti. Tra l'altro, no, guardi, dottoressa Pompei, la interrompo perché adesso dobbiamo dare suggerimenti per chi è in viaggio. Volevo un po' spiegare anche poi nel concreto come funziona questo meccanismo della conciliazione, che si può attivare presso la Camera di Commercio, perché va chiarito con grande in maniera molto esplicita che ovviamente qui non abbiamo un giudice conciliatore che condanna una parte piuttosto che un'altra, è una sede di fronte alla quale si tenta un dialogo fra le parti e si deve andare via di lì con una soluzione che vada bene a tutte le parti coinvolte, altrimenti la strada che può essere percorsa poi è un'altra. Ultima parte di Salvadanaio, ancora buona giornata da Deborah Rosciani. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione per parlarci dei conflitti che avete avuto, che avete intenzione di aprire magari con un'azienda presso la quale avete comprato un qualsiasi articolo e non è stato un acquisto soddisfacente. Quindi insomma ci sono tanti modi per poter arrivare ad un accordo con un'azienda, e oggi stiamo parlando dello strumento generale, intanto della conciliazione che si può effettuare presso le Camere di Commercio, ma in termini generali stiamo parlando proprio come dire delle liti fra consumatori e imprese che si possono concludere con una procedura extragiudiziale di conciliazione paritetica. Stiamo ascoltando anche l'esperienza del Consumer Forum, attiva da 10 anni. Tra l'altro, presidente Sergio Veroli, le volevo fare qualche domanda da parte di qualche ascoltatore che ci scrive anche al 349-238-6666. Come titolare di una società la quale ha una controversia con un operatore telefonico, posso usufruire di questo servizio? Ovviamente quando parliamo di consumatori parliamo anche magari di piccole imprese. Ma le società vanno alle Camere di Commercio. Ecco. Quello che volevo chiarire è che le conciliazioni si possono fare sia alle Camere di Commercio sia andando presso le associazioni dei consumatori. I cittadini che non svolgono un'attività professionale possono essere difesi dalle associazioni dei consumatori che hanno accordi direttamente con le aziende. Quindi sono due modi diversi, tutti e due efficaci, però sono due modi. Uno alla Camera di Commercio, l'altro presso le associazioni che poi vanno direttamente alle aziende. Le imprese invece, i professionisti, non possono essere difesi dalle associazioni. Si può fare la conciliazione anche davanti al giudice di pace, chiede Giorgio. Qual è l'alternativa del giudice di pace, dottor Veroli? Ci può dare un aiuto anche su questo? Il giudice di pace esamina le controversie fino a una certa cifra, molto bassa, va bene. Quella non è una conciliazione, quella è un giudizio effettivo, vero? È come fosse è un esempio di giustizia per piccole cose, però è un esempio di giustizia, c'è un giudice. La conciliazione invece o c'ha un arbitro o c'ha un facilitatore, o come per le associazioni dei consumatori è una mediazione, è una conciliazione paritetica, senza né arbitro né conciliazione. Volevo tornare invece a quella delle Camere di Commercio con la domanda di Giuseppe da Torino. Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. La mia domanda è: se vado da un conciliatore e quindi mette un suo giudizio, diciamo, poi questo giudizio quanto è vincolante per le parti? Il punto poi è... posso eventualmente andare... Allora, sentiamo, certo, sentiamo intanto cosa succede alle Camere di Commercio, dottoressa Pompei. Allora, intanto ecco, preciserei appunto che non si tratta di un giudizio, bensì di un invito al dialogo. Esatto, di un invito al dialogo, e presso le Camere vi sono i conciliatori che appunto sono normalmente soggetti terzi, preparati, formati, ma non sono funzionari delle Camere di Commercio, che aiutano le parti, diciamo così, ad avvicinarsi, a raggiungere un accordo. Quindi con il modello della conciliazione facilitativa. In particolare non esiste, quindi essendo una come dire dire, un tipo di decisione, se vogliamo chiamarla così, che è basata sulla volontà delle parti, questa non è vincolante né per il consumatore né per l'impresa. Però nella nostra esperienza devo dire che una volta che l'impresa aderisce, perché il vero problema è questo, far aderire l'impresa, specialmente nel settore delle telecomunicazioni, una volta che l'impresa aderisce, normalmente la conciliazione si esegue spontaneamente. Quindi una volta arrivati davanti al conciliatore, normalmente la conciliazione riesce. Mm-hmm. Però naturalmente quindi non può succedere, mi scusi se ne interrompo, prego, il caso che per esempio ci sottopone Carlo, che dice: ma se per esempio si chiede la conciliazione per un qualsiasi tipo di conflitto e è la controparte della quale si chiede evidentemente di aver ragione, facciamo l'esempio ancora che stiamo battendo da questa mattina, nel caso del gestore telefonico, se non si presenta è possibile? È possibile che non si presenti? È possibile che non si presenti, e in questo caso naturalmente si può rivolgere subito dopo naturalmente all'autorità giudiziaria ordinaria, ma nel caso in cui si presenti, come dicevo prima, normalmente la conciliazione riesce, almeno nella nostra esperienza, e ovviamente l'azienda esegue spontaneamente l'accordo di conciliazione, anche se poi questo accordo non è vincolante, nel senso appunto è un contratto, è un'intesa che le parti raggiungono e quindi ha il valore di un contratto e quindi non è, dal punto di vista giudiziario non ha una sua validità. Però, ripeto, rispetto alla nostra esperienza, una volta che il conciliatore ha messo d'accordo le parti, questo accordo viene eseguito. Ecco, questo è normalmente l'esito della conciliazione delle Camere di Commercio. Ecco, dottor Veroli, invece, presidente del Consumers Forum, ci sono molti ascoltatori che ci stanno chiedendo chiarimenti rispetto, al limite economico delle cause, chiamiamole così, tra virgolette, che è possibile aprire utilizzando anche l'opportunità dei vostri tavoli conciliativi che avete attivato appunto con tantissime aziende, le più grandi del nostro paese. Le faccio un caso, faccio anche qualche nome tanto per darle proprio anche la misura della questione. Emanuele da Roma ci scrive: sono andato dal Codacons, mi hanno chiesto 50 euro per un problema con Enel di 80 euro. Ma io non so cosa ha fatto il Codacons. No, ma leggo l'esempio l'ordine delle grandezze economiche. Sì, le associazioni sono gratuite. Quello che poche in genere chiedono a un'associazione è l'iscrizione, che è un'iscrizione annuale, certo, va bene? Per poi fruire di tutte le informazioni e di tutte le cose che servono. Però questo avviene, c'è un'iscrizione annuale che costa sui 20-30 euro, adesso non lo so poi tutte le associazioni come funzionano. E non c'è limite alla causa, alla conciliazione che si andrà a fare. Volevo precisare prima che se uno ha un problema per le telecomunicazioni e l'azienda non si presenta, prima di andare all'autorità giudiziaria può andare anche all'Agicom, va bene? Sì, cioè sì, il ricorso all'autorità per le comunicazioni, che in genere è molto sensibile a bacchettare le aziende che non si comportano bene. Ne multa praticamente almeno un paio a settimana, da quello che abbiamo visto negli ultimi tempi, no? Come? No, ne multa almeno un paio a settimana, sì, da quello che abbiamo visto. Ne multa per altre questioni, per quelle cose di cui si parlava prima, e cioè per pubblicità ingannevole, per pratiche scorrette, per l'aggressività che hanno alcune delle aziende telefoniche per fare clienti, di chiamare la gente, di fargli fare i contratti, di non dargli tempo di rispondere, insomma a volte avvengono questi servizi non richiesti, infatti. No, tra l'altro il caso dell'ascoltatore di Brescia che ci ha rappresentato prima il suo caso, non l'abbiamo invitato visto ad approfittare di questa settimana della conciliazione gratuita presso la Camera di Commercio, però teoricamente potrebbe anche venire da voi, no? E voi gli potreste organizzare una chiacchierata con questo operatore che lo insegue da 2 anni pur non avendo attivato con lui nessun tipo di rapporto commerciale. O facciamo appunto, convochiamo l'azienda per fare la conciliazione, oppure andiamo all'Agicom, va bene? Facciamo un ricorso all'Agicom denunciando l'azienda che non si è presentata, questo è il problema. Infatti. Però le aziende in genere si presentano, il problema è se poi si raggiunge o meno l'intesa, questo è il discorso. No, infatti poi sarebbe anche interessante ricostruire bene il caso dell'ascoltatore di Brescia, perché lui sostiene di aver battuto tutte le strade possibili, ma ancora gli avvocati lo chiamano, quindi bisognerebbe vedere anche dove si è inceppato il meccanismo. L'ultima domanda, Giuseppe da Bologna. Dottoressa Pompei, ci sono diversi ascoltatori che ci stanno scrivendo, non so, ne sono arrivate 3 o 4 di fila, di persone che hanno una casa di proprietà data in affitto, l'inquilino non paga o c'è un inquilino sfrattato che non se ne va. Sono questi anche casi tipici che possono essere dibattuti in una camera di commercio? Non credo, perché non abbiamo qua un rapporto fra un consumatore e un'impresa. Ma in realtà diciamo è una tipologia di controversia che non rientra fra quelle che istituzionalmente le Camere di Commercio svolgono sulla base della propria legge, però in molte Camere diciamo anche questo tipo di servizi e questo tipo di conflitti viene risolto, perché ecco, è la conciliazione è uno strumento diciamo abbastanza come dire versatile, che naturalmente è adattabile a molte tipologie di controversie. Il conciliatore normalmente è formato per mettere, diciamo appunto, per far avvicinare le parti, quindi anche per questo tipo di conflitti in molte camere si possono trovare conciliatori preparati che danno questo tipo di risposta. Benissimo, io tra l'altro non ho più tempo, devo salutare tutti, ma vorrei sentire Giuseppe da Bologna se riesce a raccontare il suo caso in 10 secondi. Lui dice: non ho avuto l'appoggio dalla Camera di Commercio, mi sono rivolto all'Associazione dei Consumatori senza nessun risultato, e addirittura questi gli hanno suggerito di andare dai carabinieri e basta. Giuseppe, che cosa le era successo? Niente. Mio padre, praticamente la sua linea telefonica del gestore gli si interrompeva ogni volta che tirava al vento. E praticamente la sera che è morto, mio padre voleva telefonarmi per chiamarmi che stava male, e non ha potuto chiamarmi perché la linea telefonica non funzionava. E pensi che sono venuti a riparare la linea telefonica la settimana dopo, perché li ho minacciati di questa denuncia. Certo. Ma io sono andato all'associazione all'associazione quella dei consumatori, sì. e mi hanno detto che loro erano volontari, che loro praticamente io, se volevo fare una rivalsa, dovevo stare dai carabinieri e denunciare. Beh, certo, anche perché qui Giuseppe c'è stato un esito molto grave, per cui probabilmente forse loro per questo motivo le hanno dato un'indicazione di questo genere. Ma magari se ci scrive esamineremo con un po' più di accuratezza il suo caso, che ha avuto un risvolto decisamente diverso rispetto a quelli di cui stiamo parlando questa mattina. Grazie a Tiziana Pompei, vi ricordo ancora la settimana della conciliazione gratuita in tutte le Camere di Commercio italiane fino al 24 ottobre. Grazie anche a Sergio Veroli, presidente di Consumers Forum. Torniamo domani. Buona giornata.